Elisir, pillole per curare le emozioni. L'appuntamento con te stesso, a cura di Federica Zani. Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Elisir, pillole per curare le emozioni. Come ogni sabato, qua su Italiana, vi parla Federica Zani, del blog latavlaesmeralda.com, la vostra motivatrice emozionale e terapeuta olistica. A questo punto, penso che avrete intuito che il mio proposito è aiutarvi a far crollare tutte le vostre false credenze e sicurezze, che ovviamente vengono dalla mente, per aprirvi il cammino alla connessione con la vostra anima, quella parte di noi stessi che sa perfettamente di cosa abbiamo bisogno per essere felici e sentirci realizzati in questa vita. Per questo, oggi vi parlerò della zona di comfort e della importanza di imparare a uscirne per non sentirci morti in vita. Ma come sempre, prima di iniziare, ci ascoltiamo una bella canzone qua su Italiana, la tua radio sull'isola. Brucia nella gola vino a sazietà, musica di tamburelli fino all'aurora, il soldato che tutta la notte ballò, vide fra la folla quella nera signora, vide che cercava lui e si spaventò. Salvami, salvami grande sovrano, fammi fuggire, fuggire di qua. Alla parata lei mi stava vicino e mi guardava con malignità. Dategli, dategli un animale, figlio del lampo, degno di un re. Presto, più presto perché possa scappare, dategli la bestia più veloce che c'è. Corri cavallo, corri ti prego, fino a Samarcanda io ti guiderò. Non ti fermare, vola ti prego, corri come il vento che mi salverà. Cavallo, oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh. Fiumi poi campi poi l'albera viola, bianche le torri che infine toccò. Ma c'era tra la folla quella nera signora, stanco di fuggire la sua testa chinò. Eri tra la gente nella capitale, so che mi guardavi con malignità. Sono scappato in mezzo ai grilli e alle cicale, sono scappato via ma ti ritrovo qua. Sbagli ti inganni, ti sbagli soldato, io non ti guardavo con malignità. Era solamente uno sguardo stupito, cosa ci facevi l'altro ieri là? T'aspettavo qui per oggi a Samarcanda, eri lontanissimo due giorni fa. Ho temuto che per ascoltare la banda non facessi in tempo ad arrivare qua. Non è poi così lontana Samarcanda, corri cavallo, corri di là. Ho cantato insieme a te tutta la notte, corri come il vento che ci arriverà. Bentornati a Elisir. Oggi iniziamo questa puntata parlando della zona di comfort. Tutta quella serie di comportamenti rutinari che abbiamo e ci fanno sentire non a rischio, quindi ci fanno credere che possiamo tenere tutto sotto controllo, gestire le situazioni e ci fanno illudere di sentirci sicuri, rappresentano la zona di comfort. La zona di comfort non dipende di fatto dal vivere esperienze positive o negative, ma semplicemente si dà per ripetizione. Ripetere sempre le stesse situazioni e sapere già che in qualche maniera le possiamo gestire ci fa sentire sicuri. Per esempio, se ho una relazione di coppia dove il mio partner mi maltratta, questa diventerà la mia zona di comfort, perché anche se sto soffrendo, riesco ad andare avanti, a gestirla, a sopportarla. E questo fa meno paura che lasciare la relazione, che significherebbe restare soli, iniziare da zero e perdere quelle false sicurezze delle quali dipendiamo. Il cervello rettiliano, quella parte della mente che lotta per garantire la sopravvivenza della specie, è programmato per difendere il vecchio, quello che si conosce, e rifiutare il nuovo, che non si può controllare, quindi dominare. Noi siamo molto bravi a sapere ciò che non ci piace, ciò che non vogliamo, che ci fa paura, ma molto poco allenati a chiederci cosa in realtà vogliamo nelle nostre vite. Ed è proprio per questo che l'anima ci spinge a soffrire, per aiutarci a portare l'attenzione su ciò che dobbiamo cambiare. Quando ci lamentiamo delle situazioni della nostra vita, però continuiamo nello stesso circolo vizioso di sempre, senza mai veramente fare dei cambi, siamo totalmente prigionieri nella nostra zona di comfort. Quando decidiamo uscirne, dando un cambio, subito incontriamo la zona delle paure, che si alimenta di scuse, dubbi, mancanza di fiducia in noi stessi, opinione degli altri che ci condiziona, e quindi la maggior parte delle persone qua si bloccano, fanno un passo indietro e tornano alla zona di comfort. Esempio facilissimo, lasciare un lavoro sicuro. Sto male, non sopporto più di lavorare lì, sono stressato, eccetera, eccetera, e decido cambiare. Però, appena faccio un passo nella nuova direzione, appaiono tutte le paure. E se poi non trovo lavoro? E se non mi fanno il contratto che voglio? E se mi pagano meno? Eccetera, eccetera. È scattato il meccanismo automatico di difesa dell'ego, che farà di tutto per non farci dare il passo di cui tanto abbiamo bisogno, per liberarci da queste catene che ci mantengono come zombie in vita. Se riusciamo a essere coraggiosi e sostenere questa incomodità iniziale, quindi andare verso il nostro obiettivo, anche se abbiamo dubbi e paure, entreremo nella zona di insegnamento. Qua possiamo vivere nuove esperienze, imparare e scoprire nuove abilità e affrontare nuove sfide. In questo modo stiamo espandendo la nostra zona di comfort, stiamo crescendo, stiamo dando valore alla nostra vita. Allora saremo pronti per fare un altro passo in avanti, verso la zona di crescimento. Ma di questo ne parliamo tra poco, dopo l'ascolto di questa bella canzone qua su Italiana. Children growing, women producing, men go working, some do steal. Everyone's got to make a living. What you see? Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny from the block. Used to have a little, now I have a lot. No matter where I go, I know where I came from. Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny from the block. Used to have a little, now I have a lot. No matter where I go, I know where I came from. I'm down to earth like this, rocking this business. I've grown up so much, I'm in control and loving it. Rumors got me laughing, kid. I love my life and my public. Put God first and can't forget to stay real. To me, it's like breathing. Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny from the block. Used to have a little, now I have a lot. No matter where I go, I know where I came from. Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny from the block. Elisir, io sono Federica Zani del blog latablaesmeralda.com e come stavamo dicendo, una volta entrati nella zona di crescimento avremo nuove mete e obiettivi, potremo incontrare il nostro proposito di vita, sentirci sicuri di noi stessi, evolverci e andare verso la nostra realizzazione personale. Indubbiamente tutti noi che abbiamo lasciato le nostre radici per trasferirci all'estero siamo usciti dalla zona di comfort, sicuramente tutti ricordiamo la zona della paura, dove c'era l'indecisione di dare il passo, i dubbi, i condizionamenti degli altri, però se siamo arrivati qua è proprio perché abbiamo sostenuto la paura dell'ignoto, di ciò che non si conosce e siamo andati avanti nel nostro cammino. Nella nostra nuova vita, in un altro paese, abbiamo imparato tantissime cose nuove, abbiamo scoperto cose di noi stessi che non sapevamo, Abbiamo osato fare cose che prima ci sembravano impossibili e sono sicura che siamo tutti d'accordo sul fatto che questa esperienza di uscire dalla nostra zona di comfort ci ha arricchito, ci ha fatto sentire vivi e questo non ha prezzo. Allora, se vogliamo crescere, imparare ad amarci, essere felici, essere amati davvero e soprattutto dare un senso alle nostre vite, dobbiamo imparare a uscire dalla zona di comfort. Immaginate che siamo uccelli imprigionati in una gabbia dorata. Vediamo il mondo da questa gabbia, però non ci azzardiamo a uscirne per paura. Allora un giorno qualcuno apre la gabbia per dare l'opportunità all'uccello di volare, ma lui resta lì, immobile. Questo è quello che succede se non impariamo ad ascoltare la saggia voce della nostra anima, che ci ama così tanto da fare tutto il possibile per farci sentire il dolore necessario che ci farà prestare attenzione a quello che la mente cerca a tutti i costi di evitare. Adesso avrete capito qual è il gran inganno della mente: farci vivere nella paura per obbligarci a essere schiavi. Ma ricordatevi che quando non siamo noi a decidere, ci sarà qualcun altro che lo farà al nostro posto. Quindi ricordiamo che l'incomodità è la chiave per porre attenzione su ciò che ha bisogno di convertirsi in azione. Fuori dalla zona di comfort si trova tutto ciò che ci porterà alla felicità. Tutte le persone che escono dalla zona di comfort e si abituano a farlo saranno destinate a essere felici, a incontrare il loro cammino e proposito di vita e a salire dal controllo della mente. A cambio, seguire le false sicurezze dell'ego solo ci assicura essere morti in vita e quindi, come dei burattini, lasciare che altri muovano i fili della nostra esistenza. Ma prima di lasciarvi con i saluti finali e con la frase che oggi ho scelto per voi come fonte di ispirazione, ci ascoltiamo una bella canzone. Da ragazzini era normale non avere soldi. E prima di ordinare e controllare il portafogli. Professor X, Batman, Iron Man e Iron Fist. Supereroi ma pieni di quattrini. Darth Vader, Lex Luthor, Joker, Harley Quinn. Mi piacciono molto di più i cattivi. So cosa vuol dire non arrivo a fine mese. Questo è il mio film, zio, ho fatto io le riprese. Non ti piace ma reagisco alle tue offese. Un regista che risponde male, Martin Scortese. Ratatata, qui nessuno ti dà una mano quando serve, come Trump con la Merkel. Meglio dire cose che fa ridere, per la verità c'è omertà. Come il crimine, senza regole. Abiti di marca con la vita che ti sfianca. Andavo al nido con mamma e papà pesano un fido. Essere indebitati già da feto. Nascondono la polvere sotto il decreto. Sotto il decreto. Con un low cost per Ibiza, il blu tornado di Gardaland. Lezioni divisa seduti all'ultimo banco. Ma dalla lotta di classe alla botta di tasse. Comunisti con Rolex. Come il crimine. Elisir, prima dei saluti finali voglio ricordarvi che il giorno 13 marzo ore 20 a Campastiglia nell'erboristeria lunaria potrete assistere alla mia charla gratuita in spagnolo. Descubre qual è la tua herida emocional y deja de sufrir por amor. E il giorno 17 e 20 di marzo alle ore 18 e alle ore 11 sarò nel ristorante ecologico Biocalma a Palma per dare altre due charle. La frase che ho scelto oggi per voi per ispirarvi è del grandissimo giudice Giovanni Falcone. Che le cose siano così non vuol dire che debbano andare così, solo che quando c'è da rimboccarsi le maniche e incominciare a cambiare, vi è un prezzo da pagare, ed è allora che la stragrande maggioranza preferisce lamentarsi piuttosto che fare. Vi ricordo di seguirmi in Facebook, Instagram, YouTube. Io sono la Tabla Esmeralda. Vi aspetto sabato prossimo per un altro appuntamento con Elisir qua su Italiana. Un bacio a tutti e buon weekend! Elisir, Pillole per curare le emozioni. L'appuntamento con te stesso, a cura di Federica Zani.